per le segnalazioni finali, io non so che ora devo chiudere, ma ora Peter so che mi farà un cenno tra un minuto, pochissimo. E allora che devo segnalare? Solo questo fatto. Ladra, no, cleptomane, e il giudice la assolve. Lo leggo dal Messaggero. Una studentessa romana, racconta Martina Di Berardino a pagina 12, è stata assolta perché, nonostante abbia rubato, non è una ladra per il giudice, ma una cleptomane. La differenza è sostanziale, perché per il Tribunale di Roma questo è un vortice compulsivo, una vera e propria malattia. Era stata beccata a rubare alcuni capi d'abbigliamento, a smascherarla era stato un agente della sicurezza, ma lei è stata assolta. Incapace di intendere e volere, ora è in cura da uno psichiatra. Ladra? No, cleptomane. Così il giudice l'assolve. Allora, in 10 secondi, volete una delle leggende sfatate oggi da Danilo Mainardi a pagina 24 del Corriere della Sera? I lupi, non è vero che ululino alla luna. Non è vero che il lupo ulula alla luna. Animali da leggenda, false credenze. Ne volete un'altra mia personale? Non è vero che lo struzzo mette la testa sotto la sabbia. A me piacciono gli struzzi, ve lo posso assicurare. Non esiste uno struzzo al mondo che abbia mai messo la testa sotto la sabbia. E perché si dice, boh, il GR. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:21 minuti. Voglio salutare per la nostra intervista Tiziano Scarpa, buongiorno. Buongiorno. Tiziano Scarpa, scrittore veneziano, cito su tutti il premio Strega 2009, no? Stabat Mater, diventato soprattutto celebre con quel libro. Senta Scarpa, la vicenda è questa: l'assessore alla cultura della provincia di Venezia, della sua provincia, Raffaele Speranzon, ha proposto e proporrà un boicottaggio a tutta una serie di scrittori, tra cui lei, invitando a togliere tutti i libri dalle biblioteche. Perché? Perché lei firmò un appello in favore di Cesare Battisti. Sappiamo la vicenda, negato l'estradizione dal Brasile. Intanto le chiedo che ne pensa dell'iniziativa dell'assessore. Intanto non lo chiamerei boicottaggio, perché il boicottaggio è una legittima obiezione civile spontanea che si può fare commercialmente evitando di acquistare una merce o evitando di non... Come lo chiamerebbe invece? E questa è una censura istituzionale, perché l'assessore alla cultura della provincia ha la delega alle biblioteche, quindi è il capo del sistema bibliotecario provinciale, non è una persona anche di prestigio politico che suggerisce un'iniziativa. Ma è l'assessore che ha la delega alle biblioteche e quindi che dispone della gestione delle biblioteche. Quindi una censura, lei dice. Tra l'altro lei credo abbia scritto oggi un pezzo uscito sul Corriere del Veneto che conclude così: questa è la terra di Tintoretto, Vivaldi, Goldoni e Giovanni XXIII, è triste che lo sia anche di Raffaele Speranzon, cioè l'assessore in questione. Ma sì, perché al di là della vicenda, che pure non voglio il cuore della vicenda, la questione... Al quale ci arriviamo adesso tra poco. Sì, sì, non è che quella voglio evitarla o schivarla, però si sta sempre con maggiore evidenza ponendo questo grave problema di questi analfabeti della civiltà. Non è la prima volta che, soprattutto in Veneto, mi duole dirlo con grande dolore, una serie di amministratori, sindaci, assessori, fanno di quelle uscite che non sono solo così dichiarazioni folcloristiche, ma veri e propri atti politici, amministrativi, dove dimostrano di non avere presenti i fondamenti della civiltà. Le dichiarazioni dei diritti umani, per non parlare anche delle caratteristiche di cultura cristiana della nostra regione. Ma devo dire che questa proposta dell'assessore non ha raccolto, mi pare, molti proseliti. Effettivamente andare contro un libro è sempre un gesto di inciviltà, su questo sono d'accordo. Però veniamo al cuore della vicenda, cioè lei è stato criticato come altri scrittori perché firmò questo appello per Cesare Battisti nel 2004-2005, credo. Intanto lei rinnega quella firma oppure l'ha firmata e dice l'ho firmata perché ero convinto, e perché lo fece? Beh, è chiaro che se lo firmava ero convinto. La differenza mi pare di riscontrare, poi è una mia opinione, fra coloro che hanno firmato e gran parte di coloro che parlano del caso Battisti, è che noi ci siamo informati, abbiamo firmato un appello, non l'abbiamo scritto, non so, bisognerebbe sì, anche sì. chiedere a chi l'ha scritto l'appello, eccetera, chi ha sentito questa forte esigenza di sostenere una persona. Ecco, io ho letto quell'appello e ho essendo informato sul caso, mi sono informato ancora meglio, ho riscontrato che su Cesare Battisti fossero state rovesciate una serie di colpe che, a mio parere, per chi si informa sul caso e sul modo in cui sono stati condotti i processi, sulla legislazione d'emergenza, ecco, in sintesi a questa persona è stata addossata, scaricata addosso una quantità di responsabilità non sue. Ma cioè lei ha scritto anche che si dubita della colpevolezza di Cesare Battisti, perché ci sono giudizi arrivati in terzo grado, 4 ergastoli, in 2 casi ha ucciso materialmente con colpo alla nuca e questo i tribunali italiani l'hanno stabilito per legge. Allora, la questione è che il cuore delle accuse si fonda su delle dichiarazioni di un pentito dalla dubbia affidabilità. Questo io ho riscontrato informandomi. Mi sembra legittimo esprimere un dubbio sull'attribuzione di questa mostruosa quantità di delitti a un uomo solo. Mi sembra che sia ingiusto, arrivo a dire, anche nei confronti delle vittime, perché gli si... Cioè lei dubita, dubita dei processi a Cesare Battisti, dubita che quei che sia colpevole? Io invito chi ha necessità, voglia, interesse di informarsi sulla vicenda di farlo meglio. Ci sono a disposizione, oggi non viviamo più in un'epoca dove è difficile attingere alle informazioni. Questo basta. Sì, però se ci sono dei processi, cioè un processo finito in Cassazione, io mi devo fidare di un processo finito in Cassazione, cioè dopodiché venga in Italia e chieda la revisione dei 4 processi, magari la si fa. Ma guardi, su questo possiamo discutere, io posso essere d'accordo su questo punto di chiedere, perché io, intendiamoci, io sono un cittadino che ha letto un appello e l'ha firmato, non sono un avvocato di Battisti. Certo. L'ho scritto io questo appello, intendiamoci. Io mi sono informato e ho ritenuto che questa fosse l'idea che si può ricavare da come la legislazione, l'uso dei pentiti, eccetera, ha condotto a questa singola condanna. Sì. Con questo non voglio discussione la giustizia italiana in questo singolo caso, gli scrittori, anche nei libri che scrivono, si occupano di singoli casi. Sì. Lei dice ci sono dei dubbi. No, io intanto ringraziarla, dico, allora secondo lei il Brasile fa bene a non riconsegnarlo perché ci sono dei dubbi? No, io non dico questo. No, chiedo. Io dico che dovrebbe farci riflettere il fatto che due paesi amicissimi, non due dittature nemiche dell'Italia o dell'Occidente, ma due nostri paesi amicissimi, hanno riscontrato delle fortissime anomalie. Cioè Francia e Brasile. Francia e Brasile. Su questo, poi, su quello che accennava lei, io sono anche d'accordo. Sarebbe il caso che a partire da Cesare Battisti si facesse una chiarezza totale, che ci fosse fosse disposto anche lui in maniera totale a fare chiarezza su. Va bene, io la ringrazio Tiziano Scarpa per essere stato grazie con noi, buona giornata. Tiziano Scarpa, scrittore, che risponde così all'appello dell'assessore della provincia di Venezia, che dice boicottiamo tutti quegli scrittori togliendone i libri dalle biblioteche perché firmarono un appello per Cesare Battisti. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi parliamo di che cosa? Il caso Ruby, il nostro sondaggio. Secondo voi il caso Ruby rischia di far perdere consensi a Berlusconi? Questa è la domanda che vi poniamo. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure, anzi, votate su radio24.it tra poco. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:35 minuti. Allora, il tema del nostro sondaggio: secondo voi il caso Ruby, come è definito oggi sui giornali, trovate tutto, ma davvero tutto, rischia di far perdere consensi a Silvio Berlusconi? Questo è il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Al momento prevalgono i sì con il 63%, dovete votare su radio24.it oppure siamo qua 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Ne vogliamo parlare con l'onorevole Marianna Madia del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Così come saluto l'onorevole Osvaldo Napoli del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buongiorno, le chiedo scusa, non ho capito qual è il quesito delle... Se questa vicenda rischia di far perdere consensi a Silvio Berlusconi tra gli elettori. Senta onorevole, ha letto i giornali già oggi? Sì, qualcuno. Ha già avuto brutto risveglio, immagino. Ci sono parole, intercettazioni di cose abbastanza esplicite, almeno. Che può avvenire soltanto in Italia in tutti i casi, vero o falso che sia, direi che al mondo non esiste paese dove atti, dove intercettazioni di cose private escono sui giornali il giorno dopo. Ecco. Quindi mi viene da ridere quando vedevo ieri il presidente Castagnetti, che è persona che io stimo moltissimo anche per storia personale, dice lui controlla che nessuno esca, poi dopo tre minuti che è stato presentato sono già usciti più della metà di quello che c'è scritto. Vero o falso che sia, che poi tutto sia da appurare. Ecco. Quindi voglio dire che anche mi pongo anche una problematica, vedo che Franco Pizzetti augura, dice sui giornali non deve uscire niente, mi chiedo io perché dobbiamo sprecare tanti di quei soldi per la privacy, per avere un authority della privacy, quando poi alla fine non si ha minimamente nella nostra storia. Questo onorevole è l'aspetto intercettazioni, che è sicuramente un aspetto interessante, però le chiedo, le accuse che vengono così sui giornali sono Ruby che dice in un'intercettazione Berlusconi gli ho chiesto 5 milioni e lui mi ha detto passare per pazza, l'avvocato nega, ex prefetti che parlano di un ex prefetto che parla di orge addirittura, e poi parole esplicite tra le ragazze nelle varie intercettazioni, insomma. Lei ci pensa che esce fuori tutto questo all'interno di una casa privata? E lei ci pensa che sono stati fotografati centinaia di persone che vanno in casa del Presidente del Consiglio e dopo 2 ore messe sotto controllo telefonico? Vede, io non entro in merito a quello che c'è scritto sopra le intercettazioni, io entro in merito al fatto che si è dato centinaia e centinaia di uomini per mettere sotto controllo, lo ripeto, perché, mi scusi, poteva succedere a casa sua, sì. Sotto controllo centinaia di persone che entrano in casa del Presidente del Consiglio e messe sotto controllo centinaia di uomini nelle perquisizioni. Quindi lei punta il problema su allora questo. Io punto un problema, che questo è un paese anomalo. Cioè lei non vuole, però mi faccia entrare anche con l'onorevole Madia a capire se questo sicuramente questo è un aspetto interessante. Onorevole Madia, le chiedo se il problema sta nel fatto di spiattellare, e qualcuno dice sputtanare, perché uno sputtanamento già c'è stato oggi sui giornali, oppure se a lei interessa anche, al di là di questo che può essere un problema, quello che c'è scritto e quello che emerge da queste intercettazioni. Onorevole Madia. Guardi, anche io non voglio entrare nel merito delle intercettazioni come l'onorevole Napoli, tra l'altro non ho ancora letto i giornali stamattina, quindi non ho letto che cosa ci sarebbe in queste intercettazioni, ma io vorrei fare all'onorevole Napoli una domanda. Io non so se lui è padre e se è padre di figlie femmine, ma io mi chiedo, oggi in Italia chi è genitore di una giovane ragazza può ancora votare Silvio Berlusconi? Io penso di no. Io penso di no, al di là di quello che noi leggiamo nelle intercettazioni. Vuole sapere cosa c'è, tra l'altro, anche sui giornali? Ha sentito, visto questa pseudo fidanzata? No, ma le dico, la famosa. Che già sapevo prima ancora che pubblicassero queste intercettazioni. No, ma sulla famosa fidanzata di Berlusconi, che ha detto ho una fidanzata. Sono andati dal padre Roberta Bonasia, una di quelle ipotizzate come fidanzata, hanno detto è per caso sua figlia. Il padre ha risposto, onorevole Madia, padre che fa credo l'operaio. magari fosse mia figlia. Quindi, le chiedo scusa, le posso? Sì, guardi, sì, dica. Allora, vedi, questo è un problema. Ascolti, io non entro in merito alle problematiche. Questo modello sociale che noi stiamo subendo. Mm. Abbiamo avuto ragazzi e ragazze, studenti ma non solo studenti, che hanno cercato di dimostrare tutto il loro disagio nei mesi scorsi, un disagio che andava oltre la riforma Gelmini, e questo era chiaro. E rispetto a quelle ragazze e a quei ragazzi non c'è stato un minuto di ascolto da parte del governo, perché evidentemente gli esponenti del governo erano, diciamo, attenti a promuovere un altro modello sociale, un altro modello culturale, cioè un modello che dice tutto è merce. È merce il corpo, è merce il lavoro, è merce il voto in Parlamento. Io credo che rispetto a tutto questo ci dobbiamo ribellare. Sì. Se oggi i genitori non si ribellano, beh, mi pare un dato veramente allarmante e preoccupante. Io non lo penso, però, non credo. Anzi, no, vabbè, io cito quello che ha detto il padre di questa ragazza. Beh, non è che il padre di questa ragazza rappresenta il genitore per eccellenza, cioè è una persona. Credo pochi e credo soprattutto sempre meno. Io penso che il voto di una larga fetta di genitori con questa ennesima vicenda è stato definitivamente perso. Questo vedremo. Onorevole Napoli, vuole replicare? Insomma, vede che un po' poi si entra. Poi le volevo leggere quello che ha scritto Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, perché qualcuno dice anche ora si vedono le mosse del mondo cattolico. Quando sento come dire, la collego a una forte contraddizione, parlare di università, di questo. Guardi, se parliamo di quanto è stato fatto dal governo in questi mesi, nonostante tutte le problematiche che sono state riforme, che piaccia o non piaccia, sono riforme. Sulla manovra economica, sull'università, sul federalismo che va, speriamo che dovrebbe andare a termine entro il mese, quindi sono riforme epocali per questo paese, quindi venire a fare, come dire, mi scusi la collega, la predica per quanto riguarda le riforme, queste riforme fatte, abbinandole, che se non si è avuto tempo e si è pensato ad altro, tipo quello che si legge sui giornali di questi giorni, beh, devo dire che... Però mi scusi, così, onorevole Napoli, mi sembra che lei lo voglia derubricare a gossip, come qualcuno ci accusa di fare, cioè tutti i giornali ora si pongono il problema, tutti, ma tutti, guardi, da anche Libero, Giampaolo Panza su Libero, scrive, forse è il caso che Berlusconi si dimetta, cioè tutti si pongono il problema di una carica istituzionale tra le più importanti guardi, in Italia. Ascolti, io personalmente, però le chiedo scusa, anche perché come le avevo detto in combinazione mi hanno già telefonato, però volevo dire, guardi, io non credo che bisogna abbinare quanto avviene in una casa privata rispetto a quanto avviene invece in termine politico-amministrativo. Deve essere il Parlamento a mandarci a casa, e uso il termine mandarci a casa, deve essere il Parlamento che se si ritiene, e mi pare che il PD e l'UDC nelle dichiarazioni di ieri, sia di Bersani che di Casini, sono intenzionati, per la prima volta sono loro che parlano di andare alle elezioni, forse pensano di usufruire di quanto sta avvenendo per prendere, incassare del consenso elettorale, addio, io me ne scampi libero, più che mai legittimo, però per la prima volta sono loro, benissimo, ci sono dei provvedimenti in Parlamento che ci possono eventualmente mettere sotto come numeri, faccio l'esempio il mille proroghe, faccio l'esempio il federalismo, se ritengono che bisogna andare a votare, bene, si prendono la responsabilità di mandarci minoranza, perché poi alla fine al di là dei tre in più c'è questa possibilità, si assumono le responsabilità davanti al paese e ci possono mandare a casa, giustamente, ognuno come parte politica. No, ma... come e va bene, fare. Questo è l'aspetto se non, politico. Se non si va a casa, gli chiedo scusa, se non, non si va a casa per quanto riguarda specialmente quanto appare sui giornali in modo particolare di gossip. No, però poi, mi scusi, onorevole Napoli, però le chiedo, mi perdoni, questo è un punto importante, non è... La questione del gossip, le intercettazioni io posso capire, ma come si chiede oggi Marco Tarquinio in prima pagina d'Avvenire, il direttore d'Avvenire, cioè in questo momento, e sarà sicuramente innocente e lo è fino a prova contraria, ma il Presidente del Consiglio su lui pende un'accusa tra l'altro di prostituzione minorile, che non è una cosa di poco conto. Le chiedo scusa, ma lei manda per caso, lei fa una crisi di governo oppure manda... Ma io non faccio nulla. Perché c'è un'accusa di minorenni, di prostituzione di minorenni. Bene, sotto quell'aspetto lì le chiedo molte scuse, aspettiamo che l'indagine e il procedimento penale faccia il suo corso, vediamo se hanno ragione. Io le posso dire una cosa, ma non è una cosa soltanto mia, le posso garantire che una cosa in termini generali di sinistra e che di destra, per quanto riguarda l'inchiesta ci sì. sono delle falle madornali. Ascolti, infatti il problema vero è il pensiero che tutto talmente ci sono delle falli, che il pensiero è che si è voluto fare questa indagine, ripeto, con centinaia di uomini, spese enormi, questo e quest'altro, non tanto per quanto riguarda il carattere giudiziario e penale, sì. ma quanto per mettere alla berlina il presidente sotto l'aspetto eventualmente fra virgolette morale. E questo è quello che circola in giro sia di destra che di sinistra. Ma no, ma questa è una, delle accuse. Il procedimento certo. penale fa il suo farà corso. Il suo corso. Tra l'altro è una delle accuse che c'è sui giornali. Berlusconi, che ieri avrebbe chiamato, meglio il Corriere della Sera dice, ha chiamato anche il capo dello Stato Napolitano, ha detto mi vogliono attaccare, mi voglio abbattere dal punto di vista personale. Diamo le informazioni sul traffico e poi riparto dall'onorevole Madia su questo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il caso Ruby farà perdere consensi a Berlusconi? Su questo ci stiamo interrogando con l'onorevole Napoli del PDL e l'onorevole Madia del Partito Democratico. Voglio sentire due ascoltatori all'800240024. Antonio d'Arezzo, buongiorno. Antonio. Buongiorno a lei, complimenti Dica. Per la conduzione e un saluto ai suoi ospiti. Dica. Volevo dire solamente questo, che secondo io sono un libero professionista a 46 anni, incontro... Sì, la sentiamo benissimo, dica. Perfetto, nulla, le volevo dire che secondo quello che anche sento in giro, comunque personalmente è un'altra storiaccia, senza dubbio, però secondo me non perderà consensi, perché la gente è molto, molto arrabbiata del fatto che vede sempre sulla televisione queste storie delle premier in prima linea. Poi dopo si viene a sentire in secondo momento che magari la magistratura o comunque ci fanno tornare in libertà mafiosi molto importanti, perché magistrati invece di impiegare 60 giorni per scrivere l'idea anche... quindi è che ci sia una persecuzione, come lei dice, nei confronti di Berlusconi da parte della magistratura. Guardi, la gente è proprio gonfia, lei dice così, va bene, la ringrazio. Esatto. Poi, la naturalmente anche un concetto di principio molto importante, uno al telefono può dire quello che vuole, non è giusto che venga spiattellato tutto sui giornali. Grazie Antonio. Ferruccio da Milano, buongiorno. Dica. Ma il mio sentimento è quello di disgusto, ma l'assurdo è questo: in quale paese del mondo potrebbero avvenire delle cose del genere? Già quando era avvenuto l'episodio... Ma quali cose? Quali cose? Cioè il disgusto? No, perché, ecco, dica su che cosa il suo questo. Disgusto. Perché... Io cerco a volte di cercare di estraniarmi dall'Italia e immaginare che quello che avviene avvenga in un altro paese, per poi poter dare un giudizio il più oggettivo possibile. Una minorenne accusata di furto viene affidata senza una riga scritta, sì. senza un'indagine di nessun tipo, a una persona che appena fuori dalla caserma lascia libera. Vabbè, Ferruccio, ma a parte che lei è indietro, posso dire che a parte che è indietro di qualche puntata, no? Nel senso, però lo accerterà la magistratura. Cioè a lei che cosa? Mi dica in che cosa prova disgusto, cioè che le dà fastidio cosa? Quello no, che legge sul giornale. A me adesso la cosa che, sì. che dà più disgusto è che delle persone che a mio parere dovrebbero avere una dignità diversa associano la loro dignità a Silvio Berlusconi, sì. cioè, perché sostenere oggi ancora con l'evidenza di quello che sta venendo fuori, che c'è una persecuzione sì, sì. Oh, e non siamo davanti qualcosa. A una situazione insostenibile, vabbè, insomma, vuol dire che i livelli di dignità sono quelli che perfetto. Vengono mostrati. Adesso, alla fine, dalle parole che escono, dopo tre minuti siamo riusciti a capire. Grazie Ferruccio. Onorevole Madia, le chiedo, l'onorevole Napoli anche dice, ma basta questa persecuzione giudiziaria, cioè se volete abbattere in una democrazia Berlusconi, si abbatte politicamente, si vota contro, perché c'è stata la vicenda D'Addario, la vicenda Noemi Letizia, eccetera. Ed è un altro tentativo di questo genere. Lei concorda in qualche modo che Berlusconi debba essere battuto politicamente, non giudiziariamente? Io sono assolutamente convinta e penso anche che spesso i tempi della politica non sono i tempi della giustizia e sono più rapidi dei tempi della giustizia, quindi batterlo politicamente ora significa batterlo prima. Ma io non ne faccio un problema penale, cioè io come l'onorevole Quagliariello non dico aspetto di vedere il preservativo, a me questo non interessa, cioè il giudizio, il percorso penale farà la sua strada, certamente non la strada spedita che ci augureremmo, perché già mi pare che l'avvocato Ghedini e l'avvocato Longo stiano sollevando diversi problemi procedurali, ma diciamo mettiamo tutto questo di lato, tutto questo non ci interessa. Noi quello che sappiamo è che ci sono gruppi di ragazze, di minorenni che andavano a casa del Presidente del Consiglio, una di queste non italiana è stata in modo assolutamente poco comprensibile affidata a questa consigliera Minetti che poi l'ha subito, cioè tutto questo fa emergere un quadro inquietante e le ripeto che ci dà a tutti noi cittadini un messaggio sbagliato e profondamente mortificante. Mm-hmm. Io prima non parlavo di riforme, io volevo parlare di futuro delle giovani generazioni, di italiani e di nuovi italiani. Qui, diciamo, il legislatore, chi governa, si dovrebbe cimentare a riformare la legge sull'immigrazione con tutti i problemi che la legge che abbiamo adesso crea, e quindi diciamo Ruby non doveva essere la nipote di Mubarak per avere un futuro di integrazione in Italia. Noi è questo che ci aspettiamo da chi governa e da chi fa il legislatore, non altro. Onorevole Napoli, secondo lei Berlusconi dovrebbe andare dai magistrati, dovrebbe presentarsi? Ascolti, voglio rispondere innanzitutto agli avvocati di qualsiasi tipo di avvocato, di qualsiasi tipo di imputato. Fa il proprio lavoro, cercano di difendere il proprio cliente in base alle normative di legge, quindi ho detto prima che a giudizio di molti questa inchiesta ha dei buchi che sono estremamente grandiosi e quindi gli avvocati del Presidente in questo caso, ma come potrebbero essere gli avvocati suoi e miei, svolgono la propria attività contestando le procedure che ritengono che siano fatte in maniera illegale. E questo è chiaro, l'avvocato fa l'avvocato. No, ma volevo rispondere soltanto al discorso della collega. Per quanto riguarda quella di andare o non andare, scusatemi, io credo personalmente che in questa fase non debba andare. Il magistrato addirittura richiede di dover chiedere l'immediata procedura di io non sono un intenditore sotto l'aspetto giudiziario, ma di andare direttamente al dibattito accusatorio. Ecco, io credo che la controparte si difende per quella che è. Sì. Io però volevo aggiungere anche quell'altro aspetto, perché proprio mentre parlavate continuavo a leggere i giornali, sentendovi mi dica che leggendo i giornali lei non pensa che ci sarà un contraccolpo, voglio dire, cioè che io condivido quello che ha detto il primo signore. Guardi, io sono uno che dorme pochissimo, sfortunatamente per me, perché mi bastano 4-5 ore, non perché sono insonne già quando avevo 20 anni. Le posso dire che vado in qualsiasi bar, vedrà che la gente al limite, poi dopo ognuno di noi ha le sue convinzioni, sono tutti quanti a chiedersi ma basta queste robe qua, ma la fatelo lavorare, ma mentre invece qua andiamo a discutere pagine interi di cosa c'è scritto di gossip. Quindi io aggiungo, quando leggo che da un anno che vengono fotografati, un anno, chi entra ad Arcore, nella villa di Arcore, io credo che questo sia un paese anomalo. Un anno, non hanno, cioè, con tutta la delinquenza, tutto quello che esiste, un anno per andare a fotografare chi entra nella villa di Arcore perché forse una minorenne, e contrariamente alla mia collega, io non vado a discutere, ripeto, lei ha fatto giustamente delle disquisizioni, ma no, io non le faccio nemmeno, ma non le faccio né per Berlusconi né per un altro. Io non vado a disquisire quello che poi sarà eventualmente un giudizio giudiziario o un'indagine giudiziaria. No, ma lei vuole mettere, sottolineare questa anomalia che c'è, chissà se è questa. Ascoltate, la strada è ancora lunga per vedere quante volte abbiamo visto in tutti questi anni, mi scusi, ma quando è andata in galera, chi era avuto? escort, che donne, soldi, machine, slot e così via, e hanno messo in galera. Adesso non arriviamo a Vulto, simpatizzante di Vittorio Emanuele, ma c'è stato dentro 15 giorni, alla fine assolto, cioè, addirittura... abbiamo tirato dentro anche Vittorio Emanuele. No, ma io mi devo fermare qui, vi ringrazio onorevole Napoli, onorevole Madia, tanto adesso Oscar Giannino continua a parlare di chissà se di questa anomalia, di tutto spiattellato sui giornali. Io ringrazio Alessandro Longoni in redazione, Peter Bescapè in regia, e che dire, 24 mattino e radio24.it, ci troviamo domattina alle 7:20.